Abbiamo sentito, questo qua sono i canti di resistenza palestinesi degli anni 70, più esattamente del 1973, quando appunto era tutto molto diverso. Volevo chiederti, appunto, visto che stiamo facendo questo flashback, tornando indietro negli anni, non lo so, ti è capitato anche magari tra le mani di documentarti anche su, che ne so, il sostegno che ci fu da parte dei movimenti operai marxisti negli anni 60, come era, insomma, c'era tutta una campagna di solidarietà con Al Fatah, con tutto il movimento della resistenza palestinese. Che dici di questo? Ma non sono documentatissimo. Mi ricordo che un tot di gente del 7 aprile era finita in galera su questioni proprio legate alla solidarietà internazionale della Palestina. No, comunque, cioè, c'erano queste cose, c'erano, boh, ad un livello totalmente diverso, sia di qualità, probabilmente anche di quantità, in tempi passati. Era un contesto forse un po' più facile, diciamo così, c'erano più binari fissi di orientamento, di percorsi politici. Adesso fatichiamo un pochettino di più a capire, però secondo me, cioè, sono quelle cose là degli anni 70 che poi hanno creato le condizioni per cui in Italia se ne parla, cioè siamo qua a parlarne anche oggi, nel senso. Sì. Sentiamo un altro pezzetto dei canti di resistenza palestinese degli anni 70. لهذا المدمدم تحت راية ثوراتي أنا ابن فتح ما هاتفت لغيرها ولجيشها المقدام صانعا